La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. The great beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Okay, thank you to the Academy, thank you to Tony and Nicola and all the actors, producers and the crew. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Io ero lì. Ero lì perché avevo il biglietto e insomma, ma eravamo in tanti, insomma, abbiamo accompagnato il film con una passione e con una speranza che è stata premiata. Eravamo tantissimi, c'era un gran pezzo di troupe a Los Angeles, è stato lì, ero lì ed è stato, che dire, molto emozionante. In realtà non ci speravamo più perché eravamo favoriti, però poi a un certo punto si pensava che avrebbe vinto il film belga, invece è andata bene. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Luca Bigazzi è il direttore della fotografia della Grande Bellezza. Nato a Milano nel 58, inizia a lavorare negli anni 70 come aiuto regista in pubblicità. Ma è la fotografia la sua vera passione e lo dimostrerà nel tempo quanto ami quest'arte che gli porterà grandi soddisfazioni. Sarà il sodalizio con Soldini a farlo conoscere al grande pubblico. Firmerà la fotografia di Paesaggio con figure e di Pane e tulipani, con i quali vincerà il David di Donatello nel 99 come migliore direttore della fotografia. Premio che aveva già vinto nel 94 con L'America di Gianni Amelio. In qualche modo noi abbiamo a che fare con le immagini, quindi è difficile distinguere quello che è una bella immagine e quello che è una bella luce. Diciamo che spesso magari si può commentare più scenografia che fotografia, nel senso che una bella immagine è accompagnata da un bel panorama, da un bel fondo, da un bel arredamento, allora quindi si tende un po' a confondere la fotografia con la scenografia, quindi insomma a volte ci prendiamo dei metodi che in realtà non ci appartengono, diciamo che è difficile che uno spettatore riconosca una buona luce, ma questo va bene, insomma io credo che sia anche giusto, non è necessario, io non credo che il nostro lavoro debba essere visibile, anzi penso che quanto più siamo nascosti, quanto più serviamo il film senza farci notare, quanto più il nostro lavoro è andato nella direzione giusta. Insomma, io sono contrario alla sovraesposizione del direttore della fotografia. Siamo dei collaboratori del regista come tanti altri, diciamo. A volte, anzi, io devo dire che ogni tanto sento che invece il mio lavoro viene troppo considerato. Anzi, io casomai penso forse il contrario, a volte mi attribuiscono dei meriti che invece sono meriti della regia o della scenografia o del film in generale, insomma ogni tanto si fanno delle distinzioni secondo me anche un po' irritanti, cioè il film non mi è piaciuto ma la fotografia era bellissima, beh insomma è un discorso inaccettabile secondo me. Perché a volte però è un po' il tentativo di salvare qualcosa, no? Quando proprio... Sì. Sai, è molto difficile che qualcuno dica ma che brutta fotografia, per fortuna. Però si vede insomma quando c'è lei dietro, perché io mi ricordo la prima volta che ho visto Le conseguenze dell'amore, si capiva insomma che c'era un... Ma io non voglio prendermi i meriti che non sono miei, cioè adesso abbiamo parlato delle conseguenze dell'amore, Paolo Sorrentino è un grandissimo regista che ha una visionarietà talmente straordinaria che francamente fare una brutta fotografia con Paolo Sorrentino bisogna impegnarsi molto, e però devo dire non solo lui, molti registi con cui lavoro sono molto attenti all'immagine, non so, voglio sperare che chiedano di lavorare con me forse perché pensano di avere una sponda più che estetica, forse una sponda, come dire, di qualcuno che cerca di capirli. Insomma, io penso che poi i registi abbiano solo bisogno di... È così difficile spiegare la luce, quindi il regista bisogno di una comprensione, direi non verbale, nel senso si devono intendere con la fotografia senza tante parole, perché come si fa a raccontare la luce giusta per un film? È molto difficile. Allora, in questo forse l'unico merito vero che mi posso riconoscere è forse quello di capire empaticamente quello che il regista vuole senza tante parole. Ecco, questo è l'unico merito che mi posso riconoscere, il resto è solo merito del... E questo modo di sentire, questo modo appunto di entrare in empatia, è una cosa che secondo lei cresce, migliora con gli anni, o è una cosa che in qualche modo uno deve insomma avere? questo non lo so se ce l'avevo fin dall'inizio, però diciamo che è una cosa anche che sento molto con gli attori. Per esempio, io non ho operatore di macchina, cioè faccio anche le riprese, e questo lo faccio perché mi pare che il rapporto con gli attori sia proprio un rapporto non verbale, nel senso la comunicazione fra l'attore che si muove e l'operatore di macchina che lo deve seguire è un fattore come di conoscenza e di intuito che passa solo attraverso una comunicazione non verbale. Questo mi sembra uno degli aspetti più interessanti in fondo del mio lavoro. Le è mai successo di non riuscire a entrare in empatia, cioè di non riuscire a capirla la persona, l'attore o il regista, insomma, che ci fossero degli attriti? Ma sì, capita, però devo dire che capita sempre molto presto, nel senso che capita ancora al primo incontro, quindi per fortuna poi si riesce a dire vabbè, grazie, non posso fare questo film. È difficile sbagliarsi. Perché lei ha detto di no quando ha capito che non c'era questa intesa. Sì, capita di dire di no, mi sembra anche giusto. Se sento di avere una posizione di privilegio nella carità assoluta e tormentosa di questo lavoro, il privilegio che sento di avere è che ogni tanto dire no. Nel senso che ho fatto delle scelte, spero, credo, mi auguro abbastanza coerenti, e quindi alcune persone non mi chiamano ed è bene così, e altre sono costretto, voglio dire no. Ecco, questo è il privilegio che a 55 anni mi sento di avere oggi. La prima volta. Luca Bigazzi è uno dei più talentuosi direttori della fotografia italiani. Ha firmato capolavori come La grande bellezza, Le conseguenze dell'amore e quasi tutti i film di Soldini. Le sue scelte di luce hanno influenzato un certo cinema italiano e hanno contribuito a formare un'intera generazione di ragazzi. La storia di Bigazzi è fino a un certo punto molto simile a quella di tanti ragazzi cresciuti nella Milano di fine anni 70. Ho una formazione abbastanza anomala, nel senso che io non ho fatto nessuna scuola di cinema, non sono cresciuto, diciamo, nella bottega del cinema ufficiale, non voglio dire romano, ma comunque sì, identificato con gli studi di Roma. Sono un inizio molto anomalo. Io facevo fotografia per conto mio, camera oscura, poi un mio compagno di liceo, che adesso fa il regista, che è Silvio Soldini, molto bravo, quando abbiamo finito il liceo ho deciso che forse io potevo essere il suo operatore per un piccolo film che ci siamo prodotti, e questo piccolo film è andato bene, l'abbiamo fatto, ce lo siamo prodotto con degli amici e così è cominciata, senza nessuna, assolutamente nessuna formazione tecnica. E questo è interessante, lo racconto perché da un lato è un'anomalia, dall'altro è anche, secondo me, un segnale di fiducia per chi giovane vuole cominciare questo lavoro e non sa come fare. Insomma, non credo che non sia necessario farsi insegnare da qualcuno più vecchio di noi come si fa, anche perché questo è un lavoro che si evolve quotidianamente. Insomma, adesso siamo passati dalla pellicola al digitale e devo dire anche per fortuna. E quindi gli insegnamenti del passato non servono assolutamente più a niente. Ma quindi lei, cioè, diciamo, quando era al liceo era, amava la fotografia, ma non aveva in testa, insomma, un sogno preciso, non sapeva di preciso che sarebbe diventato un direttore della fotografia, come invece alcuni ragazzi vedo essere determinati, insomma. No, io volevo fare il bibliotecario invece. Volevo fare il bibliotecario o lo storico. Beh. E poi invece chiaramente avevo una grandissima passione per il cinema, andavo ossessivamente al cinema, però insieme al cinema poi mi occupavo in maniera dilettantistica di arte, di fotografia, insomma avevo degli interessi un po' vaghi e generali, e quindi diciamo che però questo incontro fortunato al liceo con Silvio Soldini mi ha permesso di, in fondo, di fare quello che forse dovevo fare. Ecco, ha mai pensato all'idea che, cioè, che forse poteva fare qualcos'altro? Cioè, ha mai avuto dei momenti di crisi rispetto alla sua opera, al suo lavoro? No, io penso che ho avuto la fortuna di fare esattamente il lavoro che dovevo fare. Sì, è una meraviglia, perché poi io adoro questo lavoro, mi piace ancora adesso, che ormai sono, ahimè, 35 anni ormai, anche se ne ho 55, ho cominciato a 23, sono quasi, insomma, sono più di 30 anni che faccio questo lavoro, e devo dire che ho avuto veramente fortuna, ma questo, insomma, me lo sono, credo, cercata, però insomma, meritata. È arrivato. No, meritata non so, perché io mi detesto, rifarei ogni inquadratura, ogni singola inquadratura la rifarei, però insomma, a parte quello, ho avuto fortuna, sì. È un rapporto molto difficile questo del sapersi contentare, cioè nel momento in cui io dico va bene, sono pronto, possiamo girare, le luci sono pronte, beh, faccio una grande violenza a me stesso, perché io, se fosse per me, continuerei a mettere luci e bandiere per tutta la giornata. Invece questa forma di autocontrollo che ti spinge a dire va bene, rinuncio alla astratta perfezione fotografica e dico sono pronto, perché penso che poi debba prevalere l'interesse del film, la recitazione, la storia, la possibilità di fare più inquadrature, insomma è un lavoro che ha a che fare anche con la generosità, credo. Certo, perché e deve... non con l'egoismo. Ma lei quindi è perfezionista in qualche modo, nelle intenzioni almeno? Sì, ma diciamo che sono, vorrei pensare di essere perfezionista negli interessi del film, non negli interessi della fotografia in sé. Cioè io sono, credo, spero di essere interessato a fare dei bei film, non a fare delle belle immagini. Cioè, a volte si fanno anche delle luci che non ci piacciono, ma io non è che ho una preferenza verso una luce piuttosto che un'altra. Io spero di fare la luce adatta al film, e a volte questa luce non richiede di essere bella, insomma è uno strano lavoro. Beh, d'altronde è così anche nella realtà, no? Ma sì, è strana, la luce è molto strana, è uno strano oggetto, no? Perché in fondo ci avvolge continuamente, di giorno, di notte, anche nell'oscurità c'è sempre un po' di luce, e siamo portati a darlo scontata. In realtà la luce è molto complessa, cambia continuamente, ha delle sfumature impreviste e ti dona delle sorprese ovviamente strabilianti, però penso che capire la luce o interpretare la luce sia una questione legata a molti fattori, non è secondo me un lavoro tecnico, è un lavoro che ha a che fare con molte cose, ha a che fare con la letteratura, con la musica, con i viaggi, con le esperienze, insomma è una, io voglio pensare, insomma, sì, è un lavoro tecnico, però non esattamente, ecco, insomma, sapere capire e riconoscere il momento e la luce giusta per un certo tipo di film è una cosa che non ha a che fare con i proiettori o con i tubi di neon, ha a che fare con la propria esperienza e con la, credo, con la capacità di leggere le cose anche in un forse anche vorrei dire in un modo politico, nel senso, sì, io credo che ho fatto molta politica da giovane e credo che anche questo sia servito. C'è un aspetto sociologico anche della luce, bisogna capire se stiamo illuminando una casa proletaria, una casa borghese, che tipo di casa proletaria, insomma c'è un aspetto secondo me di rispetto della realtà e delle cose e del racconto che ha a che fare anche con la politica. Io credo fortemente che il cinema abbia una valenza politica, e che serva a raccontare la realtà e che serva anche a svelare quel manto ideologico che copre le cose, che non ci fa riconoscere qual è la realtà dei rapporti sociali che stiamo vivendo. Ecco, il cinema lo permette, e la fotografia, se correttamente interpretata, credo, spero che possa servire ad aprire e a svegliare anche le coscienze in questo nostro paese. E a proposito di questo, insomma, voi con La grande bellezza avete vinto un Oscar, cioè, e c'è dietro tutto questo ragionamento, no? Anche in quel film. Beh, sì, io non posso non pensare che La grande bellezza sia un film politico. In fondo, se vogliamo proprio semplificarla, la lettura che credo si debba dare di un film come La grande bellezza, che è un film che parla di un paese che noi amiamo, che noi sappiamo essere meraviglioso, ma che è stato devastato. Allora, la volgarità di quelle feste della grande bellezza, come dire, il vuoto pneumatico di certi dialoghi, di certe coscienze, sono il contrasto più spaventoso con la bellezza e la meraviglia di questo paese, che io credo ancora adesso riusciamo ad amare. E allora, dal punto di vista fotografico, diciamo che ci siamo sforzati di fare una fotografia anche schizofrenica a volte, nel senso di una fotografia morbida, avvolgente, calda in certe situazioni, e una fotografia invece in certe feste, in certe situazioni, sovraesposta, colorata, squillante, volgare. Insomma, ecco, è un film che vive di questi contrasti. Spero che questa cosa sia un messaggio, penso che sia un senso che il film trasmette. Da questo punto di vista, per me è, come molti film di Paolo, un film politico. Apparentemente non è politico per niente, ma invece lo è appositamente. Il commento più agghiacciante che ogni tanto sento sul film è di qualcuno che dice: come mi sono piaciute quelle feste, come vorrei essere lì. Ecco, io non vorrei mai essere lì in nessuna di quelle feste. Se mi piacciono quelle feste, inizio a pensare che veramente non c'è più speranza in questo paese. Ma è terribile, no? Non l'avevo mai sentita io, invece, questa sì, cosa. Si vede che frequento persone. Forse a Radio 24, per fortuna, nessuno lo pensa. Ma o magari lo pensano, ma si vergognano a dirlo. La prima volta termina qui. Se volete scriverci, l'indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli.